edizione. Sono le 6:14 minuti e 57 secondi. Una notizia che arriva dagli Stati Uniti: 6 morti e 3 feriti ricoverati in gravissime condizioni. È il bilancio di una sparatoria avvenuta all'ora di pranzo in un salone di bellezza a Seal Beach, nel sud della California, lungo la Pacific Coast Highway. Noi con questa notizia adesso chiediamo la linea alla viabilità. Ci ritroviamo subito dopo e daremo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sei, 17 minuti e 28 secondi. Veniamo alle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Naturalmente le aperture sono dedicate alla politica, a partire da quello che dice il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Napolitano chiede risposte credibili, è il titolo del Corriere della Sera. Oggi il discorso di Berlusconi, sarà riscritto l'articolo bocciato alla Camera. C'è un pezzo all'interno di Paola Di Caro dal titolo Scajola dice non lo pugnalerò, riferito ai cosiddetti frondisti del PDL. Segnaliamo il titolo dell'editoriale firmato oggi da Michele Ainis, che è chirurgia plastica, questo giusto per darvi un'idea. A centropagina, grande foto tra gli scontri con la polizia a Bologna e l'occupazione che sta avvenendo in Via Nazionale a Roma, gli indignati nelle piazze italiane, la protesta appunto irrompe nelle piazze italiane, dice il Corriere della Sera. Tra l'altro questo è un argomento che toccheremo più avanti all'interno di prima edizione. Sempre a centropagina il titolo dedicato a Draghi: agire subito, il paese deve salvarsi con le proprie forze, appello del governatore della Banca d'Italia. Di taglio basso troviamo l'antitrust contro gli aumenti delle assicurazioni, polizze auto e moto rincari fino al 35% è il titolo. E poi sempre di taglio basso, Vendola scomunica il lutto per Steve Jobs. Che cosa è successo? Che l'area metropolitana di Roma di Sinistra Ecologia e Libertà aveva appeso un manifesto con scritto ciao Steve, e Vendola ha detto insomma questa è una cosa che non va bene. La Repubblica, apertura, Napolitano Berlusconi è gelo, il Quirinale, tocca al Premier risolvere la crisi, domani fiducia alla Camera, questo è il titolo principale. A centropagina, indignati in piazza, assedio a Banca Italia, incidenti a Bologna, preoccupazione per sabato. Sabato, come sapete, la giornata, grande giornata della protesta, sarà il 15 di ottobre. Nelle pagine interne di Repubblica, ma segnalato in prima pagina, c'è questo articolo firmato da Bernardo Valli, superpoteri di Mercosì, il doppio leader franco-tedesco. Naturalmente il riferimento è chiaro, a Merkel e Sarkozy, all'asse tra Berlino e Parigi. Attilio Bolzoni e Francesco Viviano firmano invece un pezzo sulla grande caccia all'ultimo latitante, parliamo naturalmente di Matteo Messina Denaro. E c'è in piccolo la segnalazione della questione degli americani, del rapporto degli americani con l'Iran, l'ira dell'America su Teheran, nessuna reazione è esclusa. Il Sole 24 Ore, l'apertura sono le parole del Presidente della Repubblica, anche qua Berlusconi dia risposte credibili. Il Premier oggi la Camera, le opposizioni diserteranno l'aula, domani il voto. Il punto di Stefano Folli è intitolato Il rischio che la fiducia finisca al non governo. E poi il titolo invece dell'editoriale a firma di Guido Gentili è Il paese merita maggior rispetto. Si parla naturalmente anche del rally delle borse, un tema che toccheremo tra poco, anche questo. Quando la borsa si accorge che l'impresa c'è, è il titolo invece dell'analisi di Alessandro Plateroti. E ha dedicato alle borse anche il titolo di taglio basso, il piano per le banche spinge i listini. Vi segnaliamo che il Sole 24 Ore approfondisce anche il tema del cambiamento della PAC, della politica agricola comune. È arrivato un primo via libera ieri da Bruxelles ed una revisione della politica agricola comune molto penalizzante per il nostro paese. Per quanto riguarda gli altri quotidiani, vediamo la Stampa, apertura, Berlusconi pressing del Colle, come ben potete immaginare, e il titolo dell'editoriale a firma Luigi La Spina oggi è Balletto di viltà politica. A centropagina, grande foto di Obama che beve una birra con alcuni disoccupati del settore costruzioni in un pub a Orlando, in Florida. Il titolo è Obama tra i disoccupati, ma senza soldi. Perché? Perché il Senato americano, come vi abbiamo raccontato nei giornali radio, ieri ha bocciato la legge da 447 miliardi per il lavoro e la Casa Bianca è pronta a riprovarci. A proposito del caldo che si sente in questi giorni, c'è la questione del il 12 ottobre più caldo di sempre, dice il pezzo che troveremo all'interno di Antonella Mariotti. E vi segnaliamo anche una storia di sport interessante della Stampa. L'azione perfetta l'ha fatta la Spagna, il gol è di Silva, ma tutti gli 11 nella partita contro la Scozia con 43 passaggi hanno toccato il pallone. Il Messaggero, Berlusconi pressing del Quirinale, il titolo non basta avere i numeri, è il titolo del commento di Marco Conti. A centropagina l'appello di Draghi, l'Italia si salvi da sola, e la foto ancora una volta dei cosiddetti indignados o indignati, o insomma chiamateli come volete, insomma coloro che protestano per la crisi. Di taglio basso, una storia interessante e riguarda Finmeccanica, l'amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi. Orsi, il manager in salsa leghista che scippa Alenia alla capitale, riferisce il Messaggero, che è vicino il momento dello spostamento di Alenia, della sede centrale di Alenia, da Milano da Roma a Milano. Un'occhiata alle prime pagine, o almeno quello che troviamo su internet, dei quotidiani esteri. Partirei da i francesi, Le Monde e Le Figaro. Perché? Perché ieri c'è stato il momento che si attendeva del dibattito tra i due candidati alle primarie socialiste, François Hollande e Martine Aubry, un dibattito che Le Figaro, giornale tendenzialmente abbastanza di centrodestra, definisce noioso. Hollande parla guardando al dicendo che tutto ciò che faremo lo metterà al servizio delle generazioni future, obiettivo riunire, riassicurare, riconciliare, apriremo una vera speranza. Da parte sua Aubry ha assicurato che in Francia c'è ancora spazio per il progresso. L'apertura del Financial Times è dedicata al piano di Barroso per la ricapitalizzazione delle banche, invece per quanto e altrettanto fa naturalmente il Wall Street Journal, o almeno ne parla naturalmente con un'attenzione più marcata per quello che è la questione del cosiddetto fondo salva stati, ossia che cosa è successo ieri, che la Slovacchia, dopo aver votato no, dopo che il Parlamento ha votato no all'allargamento del fondo salva stati e alla fiducia al governo, il partito d'opposizione ha detto ok, adesso voteremo sì all'allargamento del fondo salva stati, ma prima si decida quando ci saranno le elezioni, visto che sostanzialmente il governo è caduto. Il Washington Post apre invece sulla vittoria che ha ottenuto Obama, finalmente una vittoria parlamentare bipartisan. Tra l'altro il Congresso ha approvato un tentativo di accordo che era aperto da molto tempo, un accordo commerciale con la Corea del Sud, la Colombia e Panama. È la più importante, segnale il Washington Post, espansione delle relazioni commerciali in circa 20 anni. Naturalmente molto spazio anche sui quotidiani americani a questa corsa tra i repubblicani per le primarie, e sembra, ci sono due sondaggi distinti in questi giorni, uno da Romney in testa su Kane, anche se di poco, il 23 contro il 20%, un altro sondaggio da addirittura Kane in vantaggio al 27% contro il 23% di Romney. Vedremo che cosa, mentre Perry resta al palo, vedremo che cosa succederà. Adesso ci occupiamo di borsa. Valeria De Rosa, buongiorno. Innanzitutto, buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Allora, abbiamo Wall Street sui massimi. Finalmente. Eccoci. Di economico e positivo negli ultimi tempi ci voleva. Allora, la notizia è che il Dow Jones ha azzerato le perdite del 2011. La seduta di ieri è stata archiviata con un progresso dello 0,90% circa, a 11.518 punti in finale di seduta. Diciamo che l'andamento è sì positivo nelle ultime settimane. Possiamo anche dire che dagli Stati Uniti nelle ultime settimane sono arrivati segnali positivi proprio dal punto di vista economico. Ad esempio, l'ultimo dato a memoria è quello dell'occupazione del settore privato, più 137.000 unità, mentre erano stimate 90.000 nuovi posti di lavoro. E tutto sommato, rispetto all'andamento dell'Europa, gli americani stanno sicuramente andando meglio. Meglio anche rispetto alle previsioni. Per quel che riguarda il Dow Jones è sicuramente un dato positivo, tenendo presente che a settembre il Dow Jones era sceso a 10.600 punti circa, quindi insomma una ripresa molto consistente. Detto ciò, dobbiamo anche dire che è iniziata la stagione delle trimestrali e che questo inizio non è stato scoppiettante, perché è iniziato appunto con una delusione, che è quello di Alcoa, del colosso dell'alluminio, che ha presentato ieri dopo la chiusura i dati e sono sotto le attese. Ci sono profitti in rialzo ma meno delle aspettative. Questo diciamo che non fa ben sperare proprio per tutta questa ondata di trimestrali che da qui in avanti influenzeranno i listini. Altro dato che un po' preoccupa è quello dell'indice Standard & Poor's 500, che è un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. Dopo mesi di previsioni positive, gli esperti del mercato sono tornati a essere piuttosto pessimisti, perché secondo questi esperti lo Standard & Poor's recupererà circa il 5% entro la fine dell'anno, ma non sarebbe sufficiente per terminare il 2011 con il segno più. Si aspettavano circa un 7%. Ovviamente bisognerà vedere che cosa succede nelle prossime settimane. Naturalmente. Valeria, brevissimamente, ieri è andata bene anche Milano, tra l'altro. Insomma, prosegue il trend positivo anche italiano. Sì, assolutamente. Tra l'altro, come citavi tu, c'è anche l'articolo oggi sul Sole 24 Ore del vice direttore Alessandro Plateroti. Milano è andata molto bene, come sempre quando va bene il comparto bancario Milano va meglio delle altre, perché su Milano pesano moltissimo i titoli bancari sul FTSE MIB. Grazie dunque a Valeria De Rosa per questi aggiornamenti. Prima edizione. Sono le 6:38 minuti e 20 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchessi. Studenti a scuola di prevenzione con i detenuti del carcere di Milano Bollate, contro la violenza, il bullismo, l'abbandono scolastico. Questa storia ci viene raccontata questa mattina da Maria Luisa Pezzali. Educare alla legalità con il teatro, attraverso attori detenuti che guidano sulla scena i ragazzi. Abbatte i muri di molti pregiudizi il progetto che la cooperativa sociale Este, attiva nel carcere di Milano Bollate, sta portando avanti in due scuole superiori milanesi. Carcere e scuola. In mezzo c'è la devianza, ma le prospettive temporali sono ribaltate. Il dopo in carcere è fatto di rieducazione e reinserimento. Il prima, a scuola, deve puntare sulla prevenzione, sulla consapevolezza di un rischio che si può evitare. Hai potuto morire come uno che volesse qualcosa dimostrare, ma tu dovevi soltanto vivere. primo impatto è quello con l'incontro con noi, quindi naturalmente loro curiosissimi, vogliono sapere cosa hanno mai fatto, perché, per come, quanti anni, quanti mesi piuttosto, no? Poi invece pian piano è il lavoro del teatro, non ti implica di scappare da nulla, specialmente da quelle che sono di solito le scappatoie che usiamo con noi stessi, no? Quindi vie più facili, e quelle vie più facili ci portano a fare delle cose che alle volte, o nella maggior parte delle volte, sono illegali. Enzo, 38 anni, co-conduttore nei laboratori teatrali, ha ancora 6 anni da scontare. Per lui l'incontro con i ragazzi si riassume in una parola: speranza. Sono stato contento di poter portare il mio esempio negativo, perché è un esempio negativo, da una parte, e fargli vedere la differenza di come sto costruendo e di come cerco invece di affrontare la vita in un termine più legale, proprio di vita con la società e con quelli che mi circondano, insomma. Scopo del progetto Live: aiutare i ragazzi, in questo caso gli allievi degli istituti professionali Bertarelli e Marelli Dudovic, a comprendere cosa si rischia davvero perseguendo comportamenti di devianza dalla norma come bullismo, violenza, abbandono scolastico e dispersione dagli studi. La norma non è solo la regola imposta, ma la costruzione di equilibri per vivere bene insieme, ci dice Michelina Capato, presidente e direttore artistico di Estia. C'è un riconoscimento e un passaggio immediato del senso dell'esperienza che non chiede di essere, come dire, argomentato in un tavolo di discussione, perché chi viene lì è portatore di un'esperienza, e quindi guardarti negli occhi e dirti: guarda, io sono là. Sono là dentro, vedi un po' tu, no? Se a questa età vuoi finire lì o altrove. Era la prima edizione di Italia in Controluce per quest'oggi, 13 ottobre. Torniamo oggi 13:30 a Radio 24. Le 6:41 minuti e 48 secondi. Vincenzo Benedetti, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei si trova in Via Nazionale? Ha passato la notte là davanti? Sì, siamo ancora. La nostra era ancora passata, la nostra notte. Sotto le coperte. Senta, ma hanno che cosa? Allora lo chiariamo naturalmente, perché si fosse messo in ascolto da poco. Vincenzo Benedetti fa parte di quelle persone che con lo slogan "Occupiamo Banca d'Italia" ha deciso di occupare quella zona, nella zona di Banca d'Italia, appunto. Esattamente dove avete passato la notte? Sulle scale del Palazzo delle Esposizioni, ho capito bene, o sul mare? Marciapiede. Sì, infatti, esatto, sotto il Palazzo delle Esposizioni, sì, siamo riparati dall'umidità, diciamo, sotto gli archi, ecco. Siamo ancora qui sulla scalinata, abbiamo montato delle tende, perché ci hanno gentilmente, con molte virgolette, accompagnato via dalla strada. Vi hanno allontanato, ci consente di dire, dalla parte di un automobilista, insomma, anche giustamente, insomma, restare in mezzo a Via Nazionale a Roma non è esattamente quello che... No? No. Che... Sì, anche rimanere in mezzo a una strada, come tutti noi che ci svegliamo, non è tanto giusto, sì. Per questo che abbiamo occupato Via Nazionale. Senta, allora ci spiega perché proprio la Banca d'Italia, perché molti se lo chiedono, è questo che non si capisce tanto bene. Beh, innanzitutto perché queste politiche di austerity stanno facendo il giro delle varie nazioni europee, fanno capo tutti alla BCE, e Draghi, il nostro caro governatore, sta per diventare governatore della BCE, e tramite la Banca d'Italia, come tutte le altre banche d'Europa, insomma, ci stanno mettendo in ginocchio, continuandoci a dire che la crisi dovremmo pagarla noi, di questo fantomatico debito che non è nostro, ecco, non dovremmo pagarli, è il tramite ovviamente Draghi con la Banca d'Italia. Per questo anche i giovani si sono chiamati Draghi ribelli, insomma, ci siamo chiamati Draghi ribelli perché siamo Draghi che non accettiamo gli ordini della BCE, ecco. Quanto rimanete là, Benedetti? Ma noi puntiamo ad arrivare al 15, questa, che sia una piattaforma di lancio, diciamo, per la manifestazione del 15, quindi puntiamo a rimanere qui fino a sabato, ecco. Prevede disordini per il 15? Ma guardi, nessuno se li augura e non si prevedono, però le posso assicurare, neanche io me li auguro, però le posso assicurare che è veramente tanta la rabbia, ormai non di associazioni organizzate che anzi fanno, continuano a fare la pacieri per invece il malcontento che ormai è fra tutta la gente, quindi ripeto, né me li auguro né se li augura nessuno, però certo c'è tanta ma tanta tensione, ma dovuta dalla disperazione di tutti, ecco. Quindi, come dire, è scontato che avverranno, lei dice? Spero di no, però come dire, qualcosa di attenzione ci sarà indubbiamente, ma anche per la moltitudine di gente, per lo scenario variopinto, insomma, che ci sarà. Poi ripeto, nessuno si rispera, però io da cittadino aquilano ricordo tutti che quando 5.000 aquilani, che erano solo terremotati, che chiedevano giustizia, furono manganellati, se lì anche lì parliamo di scontri, quindi speriamo che non succedano, ma spesso non sono provocati, diciamo, dai manifestanti. Grazie Duca. Vincenzo Benedetti, che immagino non abbia passato una notte proprio tranquilla, ma comunque naturalmente sono scelte, come si dice. Grazie Benedetti, buona sono giornata. Buona grazie a voi, buona notte. Buona giornata. Prima edizione. Sono le 6, 47 minuti e 30 secondi, ci sono tre notizie sportive che stanno dominando in queste ore le cronache, e sono di tre sport diversi tra l'altro. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone e a tutti gli ascoltatori. Io vorrei iniziare con te da quella della serata di ieri, ossia questo Eto'o che potrebbe ritornare all'Inter, all'Inter, svernare dalla Russia come adesso, il migratore. Sì, è diventato così un migratore, come dici tu, perché siccome Russia ovviamente si ferma tutto il campionato, allora la pazza idea che starebbe emergendo è quella di un ritorno a tempo, cioè per l'inverno ritornerebbe a giocare all'Inter in modo da mettere una toppa, insomma, nelle difficoltà attuali della squadra di Ranieri. E il problema è che lui giocherebbe anche gratis, però i russi non sono tanto contenti perché ci hanno investito più di 47 milioni in Eto'o, e quindi se si fa male il problema resta. Comunque sì, al momento sono a contatti. Immagino il rischio che si incrementa, perché comunque si è già giocato un campionato, quello russo, esatto, e ne viene a giocare un altro, insomma, tutto sommato un po' di riposo. Ci sono già stati altri vai e vieni dalla Russia per altri giocatori, però questo è clamoroso, e soprattutto un giocatore come Eto'o che, insomma, l'anno scorso ha fatto 37 reti nell'Inter, insomma, è uno fuori classe assoluto. Da dove stiamo parlando di una bandiera dell'Inter, parliamo della bandiera italiana invece, perché questa è una bella polemicuzza che sta montando. È una di quelle storie che apriranno subito mille dibattiti: la bandiera, la nazionale, il fatto che un atleta deve rappresentare il suo paese. Il fatto è questo: che Federica Pellegrini, a domanda se potrebbe la bandiera nella cerimonia olimpica, ha detto: oh no, io non posso, perché stare 7 ore in piedi mi stancherebbe troppo, eccetera. Non suona bene, diciamo la verità, non suona bene, al di là della simpatia. Detto ciò, poi magari ha pure ragione. Magari, effettivamente sono cambiati i tempi, i modi di allenamento rispetto al passato, però non è bello, ecco così. E immediatamente c'è stata una risposta del presidente del CONI che ha detto: non è portare la bandiera, non è andare in via Crucis, che è molto arrabbiata, polemico giustamente, perché comunque Federica Pellegrini è un simbolo dell'italianità, no? Ecco, quindi sentirsi dire da uno dei rappresentanti più simbolici del nostro paese dello sport che non ha piacere di portare la bandiera suona male, in un momento in cui il nostro paese poi ha già mille guai, peggio ancora, ecco, mettiamola così. Allora, passiamo a parlare a questo punto di quello che è diventato un altro simbolo, un bel simbolo, e non solamente dell'Italia, cioè di una storia di riscossa, se vogliamo, no? Di rinascita, che è questo vincitore della schema, questo oro nella scherma, questo pizzo, tra l'altro catanese, ha vinto nella sua città, insomma, ci sono mille cose che si incrociano. È una bella storia anche questa, perché appunto, a parte che si aggiunge la quinta medaglia che si aggiunge per l'Italia a questo mondiale, che per noi veramente porta bene. Tra l'altro evidentemente è uno sport che insomma fa bene per l'Italia, così porta fortuna. Però Paolo Pizzi in realtà, oltre ad essere catanese, quindi si può dire che questa volta è profeta in patria giocando con i soliti, sì, possiamo anche aggiungere che ha una storia così di quelle che fanno ben sperare, perché lui a 13 anni ha avuto un problema, diciamo, di carattere tumorale che ha superato poi negli anni, e quindi sono quelle storie di sport che dicono: beh, lo sport ti fa uscire dai tunnel più strani della vita e più duri. E quindi ecco, è una storia da raccontare che ci sarà anche nel GR Sport, che quindi sì, è bene segnalare. E quindi insomma ci sono tante cose che si mettono assieme e di cui appunto lo sport parla, ed è sempre un momento così importante perché grazie, ci fa uscire dalle secche dei dibattiti politici, sì, economici. Grazie dunque a Dario Ceccarelli, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Viola Bottoni in redazione, grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto. Da Simone Spezia ci sentiamo tra poco con il giornale radio.